Vi avevo invitato a seguire un breve corso tenuto dagli alti e bassi per allenare il nostro orecchio, per arrivare ad avere un orecchio musicale che aiuta sempre nella vita. Qui Andrea e Filippo degli alti e bassi sono in studio con me, pronti per Eccoci. Suggerirci alcuni esercizi. Abbiamo chiuso da poco la trasmissione e allora noi alleniamo il nostro orecchio. Andrea. È molto importante riuscire a riconoscere i cosiddetti intervalli musicali. Nel nostro sistema occidentale abbiamo la scala, ad esempio possiamo partire dal Do, no? La scala maggiore di Do, che è costituita da una serie di intervalli, che sono le distanze tra una nota e l'altra. È un esercizio molto utile quello di allenare l'orecchio a distinguere e a riconoscere questi intervalli, ed è proprio quello che adesso andremo a fare. Allora, la scala tutti la ricordano se avete studiato a scuola. Le parole, le sillabe sono do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ecco, però a queste sillabe bisogna attribuire dei suoni e devono essere quelli giusti. Adesso cominceremo dagli intervalli più vicini e poi man mano verso quelli più distanti. Allora, do, re, provate a riprodurlo. Ripeto io l'intervallo giusto. Do, re. In musica si chiama intervallo di seconda maggiore. Secondo esercizio. Intervallo di terza maggiore. Do, re, mi. Adesso provate a riprodurre il più basso e il più alto, cioè il più grave e il più acuto di questi suoni, ovvero do e mi. Ora lo farò io. Do, mi. Era giusto? Allora passiamo all'intervallo di quarta. Dal do al fa. Do, re, mi, fa. Provate a riprodurre le note più... la nota più bassa e la nota più acuta, il do e il fa. Adesso lo farò io. Do, fa. Era giusto? Passiamo all'intervallo di quinta. Do, re, mi, fa, sol. Provate a riprodurre il do e il sol. Li riproduco io. Do, sol. Ora l'intervallo di sesta, sempre più difficile. Do, re, mi, fa, sol, la. Il do e il la. Prima li cantate voi e adesso li canto io. Do, la. Ora un intervallo difficile, quello di settima maggiore. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Provate a cantare do e si, e questo è difficile. Per sentire se è giusto, adesso li canto io. Do, si. Questo è un intervallo difficile perché è cosiddetto dissonante. E ora invece un intervallo molto consonante, l'intervallo di ottava, tra un do e l'altro do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, do. Era giusto? Questo è facile, infatti le due note hanno lo stesso nome. Ci siamo allenati, io sono stata generosa perché non ho fatto la prova, perché sennò finiva qui il nostro esercizio, ma mi allenerò e cerchiamo, Andrea, di capire che cosa può darci questo esercizio? In che modo può tradursi come benessere per la nostra voce, allora, per il nostro ascolto? Assolutamente, è semplicemente un incremento della percezione, cioè cominciamo a capire un pochino più in là rispetto a quello che capiamo adesso, e questo è sicuramente un grande beneficio, perché ti permette di sviluppare, di crescere con l'orecchio. A tal proposito possiamo dare una serie di suggerimenti ai nostri ascoltatori. Chiederti prima una cosa, prima del suggerimento, un esercizio che possiamo fare insieme ai nostri bambini? Ecco, insieme ai bambini ce ne sono tantissimi di esercizi. Ma questi possiamo farli, può essere una buona idea. Questo si può fare, non bisogna dare per scontato che non lo riescano a fare o che non capiscano. I bambini capiscono perfettamente e sono in grado veramente di fare cose anche estremamente complicate, estremamente difficili. Quindi sicuramente questo è un esercizio che si può fare. Altri esercizi che si possono fare erano, uno, quello che avevo detto prima io in trasmissione: ogni volta che c'è un suono, un rumore, provare a riprodurlo in presenza del proprio bambino, e questo sicuramente aiuta l'orecchio. Poi si può giocare con i bambini, si possono fare dei disegni, ad esempio possiamo prendere un foglio di carta, disegnare due fogli di carta, sul foglio di carta a sinistra un tamburo grande, sul foglio di carta a destra un tamburo piccolo, provare ad ascoltare insieme una musica e chiedere al bambino di battere col proprio pugno della mano sul tamburo grande o sul tamburo piccolo dove senta un suono forte o un suono piano. Questo aiuta a distinguere ad ascoltare i suoni, le dinamiche, il suono forte o il suono non forte, il piano. Per quanto riguarda invece i suggerimenti a cui tu accennavi, per trovare spazio nella nostra quotidianità, allenare un po' il nostro orecchio musicale, può farsi una propria palestra personale, indipendentemente dal nostro aiuto come in questo momento, cercando di ascoltare la musica che ama e distinguere determinate variabili. Sicuramente si può cercare di distinguere in una melodia di un cantante, qualunque cantante, da Vasco Rossi a un cantante lirico, distinguere quali siano gli intervalli delle note, cercare di ricantare esattamente la stessa linea melodica. L'altro potrebbe essere quello di cercare di distinguere il modo nella musica è il modo maggiore o il modo minore. Adesso, senza entrare nello specifico, nel dettaglio, ci accorgiamo spesso che ci sono delle canzoni che sono più solari e altre che magari sono un pochino più malinconiche. Ecco, il modo minore è quello tipico malinconico. Uno può cercare di distinguere se secondo lui è un modo maggiore o un modo minore. Il ritmo, anche questa cosa qui è interessante, cercare di distinguere un ritmo dall'altro, distinguere una dinamica dall'altra, il forte dal piano, e poi molto importante anche cercare di fare un lavoro di confronto. Se noi siamo appassionati per esempio di musica classica, per dire un genere musicale a caso, ci sono anche diverse interpretazioni, certo, di un brano. Ecco, confrontarle, ascoltarle, non so, l'esecuzione di Herbert von Karajan, magari quella di un altro direttore d'orchestra, quella di Muti, cercare di ascoltare diverse versioni di un brano, anche se non siete appassionati di musica classica, è un esercizio utilissimo. Filippo, chiudiamo con Doremi. Ecco, io direi un altro esercizio un po' più evoluto, forse potrebbe essere quello di cercare di cantare una canzone che si conosce molto bene, una nota sì e una nota no. Oppure in alternanza con un'altra persona, che potrebbe essere, non so, la nostra fidanzata, la moglie, i figli, qualcuno, una nota a testa. Cioè appena cambia la nota, come qui qua, passa all'altra persona. Ce lo fate sentire, che così diamo questo così stimolo ai nostri ascoltatori che ci magari stanno... Magari lo proviamo a fare con Andrea adesso con la scala, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ritorno, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Ci vuole orecchio, gli alti e bassi ci hanno aiutato in questa breve intervista ad allenarlo, a stimolarlo. Voi continuate a fare gli esercizi e scriveteci a essere benessere@radio24.it. Ringrazio gli alti e bassi. Grazie a te, Nicoletta, un saluto a tutti gli ascoltatori.